Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Le 8, 17 minuti e 16 secondi di lunedì 14 settembre. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, oppure l'800-24-00-24 se volete intervenire in diretta su tutto quello che vi pare. Oggi, ovviamente, come un po' tutta Radio 24, parleremo anche di scuola. Avremo ospite Patrizio Bianchi, coordinatore, che è stato il coordinatore del comitato degli esperti del Ministero dell'Istruzione, insomma la task force per la ripartenza della scuola. Ma prima avremo ospite il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Prima però è il momento del consueto appuntamento al nostro Paolo Mieli. Paolo, buongiorno e buon inizio buongiorno, di settimana. Buongiorno, eccomi qui. Eccoci qua. Iniziamo con un po' di politica, ti direi, oggi. E sì, lasciamo stare la scuola, tanto sì, ne parleremo nei prossimi giorni. Ma sì. Adesso ci sono tutti annunci, insomma si può già dire grande caos, grande disordine, ma insomma... Per il momento è qualcosa di fisiologico. Sì, vedremo come sarà anche alla fine della settimana, all'inizio della settimana prossima. Però mi vorrei concentrare sulla politica, perché questa è anche la settimana che ci porterà al voto per le regionali e al voto per il referendum. Quindi una settimana strategica per tanti motivi. Ebbene, oggi ho visto che abbiamo una Giorgia Meloni che... So, non dico che sposa le ragioni del no per il referendum, e però lo legge come un modo per mandar via Conte, per far cadere il governo, e quindi sembra progressivamente spostarsi in quella direzione. Sì, prima c'è stato Giorgetti nella Lega con la sostanziale approvazione di Salvini, poi oggi c'è anche Attilio Fontana, il leghista... Presidente della Regione Lombardia, che si schiera per il no. Poi, come tu hai ricordato, la notizia del giorno è la Meloni che appunto spiega ai suoi elettori, dice: io sono per il sì, però se volete mandare a casa Conte dovete votare no. La destra ha capito negli ultimi giorni che se si vuole mandare a casa Conte bisogna votare no, un po' tardi l'ha capito, e poi cerca di tenere i piedi in due staffe. Ammesso Paolo che la conseguenza politica possa essere effettivamente quella, perché magari anche se vincesse il no, il governo potrebbe anche non cadere, tutto sommato. È vero, potrebbe anche non cadere, ma comunque è tardi. Comunque queste sono un po' cose dell'ultimo minuto, tant'è vero che, e non ne parlerò perché bisogna stare alle leggi che impongono il divieto di diffondere i sondaggi, ma per un caso, per un errore, l'ANSA sabato sera ne ha trasmesso uno commissionato dalla Presidenza del Consiglio e, ripeto, non dirò quello che c'era scritto, ma sostanzialmente in materia di referendum non c'erano grandi variazioni da quelle che erano le aspettative, per cui questo intervento finale della Lega di Giorgetti e della Meloni, non, da quello che si può vedere, non sposta. Quello della Meloni non c'era ancora stato. Anche Carlo Cottarelli sulla stampa si schiera per il no, il disegnatore Emilio Giannelli sul Fatto si schiera per il sì. Insomma, ci sono le ultime dichiarazioni di voto nel ceto delle classi dirigenti, fra gli intellettuali. Il no sembra strabordante, anche in televisione si vedono solo persone che dichiarano il no e pochissime dichiarano il sì. Io penso che se le cose andranno come si annunciano, e sarà una grande sconfessione di noi giornalisti, delle classi dirigenti più in generale, della politica, nel senso che si vede come il loro schieramento quasi unanimo, ancorché tardivo, lo sottolineo, per il no ha spostato poco, e quindi il risultato sarà curioso, non solo per quello che riguarda il taglio dei parlamentari, ma anche per un giudizio sulla capacità di influenza di quelli che venivano chiamati poteri forti, i grandi giornaloni, e la classe politica si potrà in vedere, genere, sì. Si potrà vedere che nonostante, allora, prima tutto il PD è stato travolto da dubbi, poi sia Berlusconi che la Meloni che la Lega hanno cominciato a dire che forse era meglio che vincesse il no, poi un grandissimo schieramento di intellettuali si è mosso per il no, se tutto questo vedremo. Non produce cambiamenti, lo vedremo, insomma, certo, lo giudicheremo. Lo commenteremo e come continueremo a commentare insieme tutte le notizie di attualità. E sempre sull'attualità e sulla politica, cioè la vicenda giudiziaria che incrocia la politica, quella per eccellenza di queste ore, sono i soldi della Lega. Oggi un paio di giornali, segnatamente La Repubblica e Il Fatto Quotidiano, aprono su questo tema perché trovano nuove carte, nuove indicazioni secondo le quali nella vicenda dei commercialisti arrestati si trovano 1.350.000 euro passati dal partito ai tre commercialisti attraverso l'ex direttore di una filiale di UBI di Seriate, il quale tra l'altro parla con i magistrati e dice: ho insabbiato tutto. Inizia a prendere decisamente corpo questa inchiesta, Paolo, e essere forse anche preoccupante per la Lega. La parolina magica che è comparso sui giornali l'altro ieri e ieri è Trojan. Sembra che uno di questi qui avesse addosso un Trojan, che è quel marchingegno con cui si captano tutte le conversazioni. Sì. E siccome sì, in realtà un software inserito nel telefono che fa sì che si possano captare tutte le conversazioni, sì, prego. Per comodità. E siccome vediamo sui giornali che compaiono queste parole: conti svizzeri, fiduciaria panamense, piani altissimi tra virgolette, soldi a soggetti non identificati, tutto questo significa, se sappiamo leggere i giornali, che passate le elezioni partirà una cosa di intercettazioni sui giornali, di cose per cui, come sempre, come anche per il caso Palamare, come tutti questi grandi casi, dimenticheremo l'origine, che era la compravendita di un capannone per la Film Commission della Lombardia, e invece ci appassioneremo, quelli che si appassionano a queste cose, alla lettura di conversazioni che schizzano fango, e ovviamente sappiamo che questo fango andrà un po' dappertutto, su tutti i soggetti, un po' dappertutto. Alessandro Giuli sul Libero dice: ah, ma questo non illudetevi con i giudici, non succederà come Berlusconi. Ora, succederà come per Berlusconi, è vero che Berlusconi ne è uscito alla fine illeso, però alla fine delle fini, cioè oggi è un soggetto marginale della politica, senza mancargli di rispetto, è entrato in questa inchiesta che era votata dalla maggioranza degli italiani, Presidente del Consiglio, l'uomo più potente d'Italia, e questo tritacarne conta sì come ne esce alla fine, ma conta anche il durante. Eh sì, no? Assolutamente, come ne esci durante le elezioni, che cosa succede, quanto ti resta attaccato di tutto questo. Se oggi appunto Repubblica pagina 3 ci parla di una cena con due di questi commercialisti alla quale sarebbe stato presente lo stesso Salvini, insomma è un'inchiesta della quale dovremo ovviamente vedere gli esiti, seguire gli sviluppi e vedere anche come sarà trattata mediaticamente, perché anche questo, come dicevi giustamente, l'elemento è uno degli elementi centrali. Ti faccio sentire Zingaretti. Zingaretti ieri era bello carico. Basta con l'ipocrisia di essere alleati, ma in televisione fare la parte degli avversari, perché questo logora l'immagine di un'alleanza che deve essere unita da una visione. Niente male. Il Fatto titola: Zinga fa il cattivo, lo prendo un po' in giro, nel senso che ieri ogni tanto lo fa, Zingaretti gli piace quando sale sul palco alzare i toni, ne abbiamo già parlato anche più volte l'anno scorso, e a me sembra però che la cosa che hai trasmesso faccia un po' sorridere, nel senso che loro stanno andando ad optare per un sistema proporzionale. Il sistema proporzionale è quello in cui le liste, quanto sono più vicine tanto più si fanno concorrenza, e quindi se quello che lui dice, noi in privato siamo grandi amiconi e poi andiamo in televisione e dobbiamo litigare, grazie, perché se vanno in televisione e fanno gli amiconi, chi li vota? Certo. E quindi si chiama concorrenza. Certo. Mi ricordo Prodi disse una volta competition is competition, perché c'erano liti fra i DS e la Margherita e poi l'Ulivo, cioè quanto più i sistemi diventano proporzionali tanto più si assiste. Del resto l'alleanza più duratura della Prima Repubblica, quella fra il Partito Socialista e la Democrazia Cristiana e poi i minori repubblicani e socialdemocratici, era fatta di competition, di liti, che uno dice se votate me il governo sarà migliore, più a sinistra o più a destra, capisci? Sì. Quindi questa cosa che ha indignato e ha fatto urlare e ha fatto fare il cattivo, riprendere le parole, sì, fatta Zinga, Zinga dovrà fare il cattivo per tutta la vita, perché sì, si è scelto lui. A proposito di concorrenti, Paolo, oggi ho visto, non sono riuscito a leggerlo in rassegna stampa, c'era un pezzo feroce su Libero, su Italia Viva che festeggia un anno di vita mercoledì, com'è Italia, adesso lo recupero, Italia non, troppo non, poco non, viva, una cosa di questo genere, sì, non è troppo viva, Libero, sulla verità, Italia non è troppo viva, Antonio Rossitto lo firma. È bravo, insomma fa un po' sorridere. Veramente io non me lo ricordavo che appena nato il governo, in realtà l'anniversario non cade oggi ma cade fra due giorni, il 16 settembre Renzi annunciò la formazione di Italia Viva, pensavo che l'avesse fatto un po' dopo, invece Italia Viva compie effettivamente un anno e il tono è di dileggio, soprattutto confrontato a quello della Germania, dove oggi Angela Merkel compie 15 anni di potere, e quindi mentre quello, il tono del giornale è elegiaco nei confronti di Angela Merkel, quello della verità è, come hai detto tu, puro dileggio. Hanno, sì, fatto però una cosa curiosa, sono andati a cercare, a trovare il sindaco di Modica, Ignazio Abate, che ha fatto in tempo a entrare e già uscire da Italia Viva, dice, molto rapido, è stato rapidissimo, dice la gente li ha percepiti come trasformisti, io non mi sono trovato bene, ho un sacco di preferenze, il 70% dei suffragi e me ne sono andato. Ignazio Abate, sindaco di Modica, sulla verità. Ultima cosa sulla quale ti voglio portare, Paolo, è la vicenda del generale Haftar che ha catturato dei pescatori di Mazara del Vallo e sostiene di non avere intenzione di liberarli finché l'Italia non libererà quattro persone che sono accusate di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di violenza sulle persone trasportate in un barcone. Sono quattro libici e che però asseriscono di essere calciatori, addirittura uno calciatore della nazionale. E quindi è una battaglia per, se vogliamo, guadagnare consenso in Libia da parte di Haftar, che dice liberateli, altrimenti noi non libereremo i pescatori di Mazara. È un discreto problema internazionale, sì, questo, eh? Questo vuol dire solo una cosa: primo, che con la Libia non riusciamo ad avere buoni rapporti né con una fazione, quella di Sarraj, non sono che si è messa nelle mani dei turchi, né con Haftar. E purtroppo ci dice tante altre cose che riguardano altri argomenti. E poi che questa cosa dei calciatori è buffissima, perché te la immagini, la nazionale libica, sì, essendo il paese diviso da uno scontro fra i più feroci che ci siano oggi nel pianeta, e lo scafista calciatore è una cosa, è una figura, assolutamente, insomma, fa fare bella figura la fantasia di Haftar, quello, sì, che rivolge, perché questi scafisti sono stati condannati in via definitiva, sono, sì, scafisti che l'anno scorso a Ferragosto provocarono anche una strage, una moria in mare, insomma una vicenda delicatissima, e se noi riconoscessimo che sono validi i calciatori e li liberassimo faremmo una figuraccia, insomma, certo, faremmo, però stare lì da tenere prese, da Haftar, anche, sì, anche se Haftar poi militarmente non è che sia, adesso non voglio dire frasi compromettenti che poi chissà, sì, cosa succede a me, a questa radio e anche a te ma Ti ricordi Haftar a un certo punto sì, sembrava che dovesse vincere la guerra, sì, prese Tripoli, annunciò che l'aveva presa, poi è stato 9 mesi alle periferie di Tripoli senza mai, possiamo anche tenerlo 9 mesi senza gli scafisti calciatori, dai, forse possiamo rischiare questa volta. Grazie Paolo, ci sentiamo domani mattina, subito dopo il GR delle 8. Grazie a voi. Grazie Paolo Mieli, una pausa, ci ritroviamo tra un attimo col Ministro dell'Ambiente e poi col Professor Patrizio Bianchi, a tra poco. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia, cambiamolo in meglio. Inaz.it Mattino. Sergio Costa, Ministro dell'Ambiente, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie di avermi invitato. Vorrei partire con lei oggi da questo tema dei sussidi ambientalmente dannosi. Cosa sono? Sono quegli incentivi che vengono dati, quei soldi che vengono dati e che possono essere dannosi per l'ambiente. Per esempio, viene portato come esempio standard di tutto questo le accise che sono più basse sul diesel rispetto alla benzina. Voi avete in animo di ridurre questi sussidi ambientalmente dannosi. Dall'altra parte vi si dice, Costa, che ridurre i sussidi ambientalmente dannosi equivale di fatto ad alzare le tasse. Cosa risponde? Io non sento niente. Non sente? Non sente il mio... Sì, ci sente, Ministro? Ministro, ci sente? Non ci sente, evidentemente abbiamo dei problemi tecnici, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Ministro, ci sente? Eccoci, sì, ecco. Oh, finalmente, finalmente. Scusa, ma... No, non so cosa ha sentito nella domanda, però stringo molto ed è questa. Alcuni dicono che la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi corrisponde di fatto ad un aumento delle tasse. Cosa risponde? Vuole aumentare le tasse? Allora, no, guardi, voglio precisare intanto una cosa. Sussidi ambientalmente dannosi è già previsto che siano cancellati dall'accordo di Parigi firmato a livello internazionale da 198 paesi al mondo. Quindi è un impegno assunto dall'Italia in cosiddetti tempi non sospetti. Ma la trasformazione dei SAB, sussidi ambientalmente... Vediamo se riusciamo a trascinare in porto dannoso all'ambiente, lasciarlo in mano alle stesse persone, alle stesse categorie che godono di quelli dannosi per trasformarli in green, quindi il cosiddetto saldo zero. Quindi sì, non serve ad aumentare le tasse, serve a compensare un passaggio dal no green al green, sì. È completamente diverso, quindi si parla di un livellamento del passaggio, come ha detto lei, per esempio ha toccato la vicenda del gasolio, ma ce ne sono tanti di questi sussidi, pensi che montano a oltre 19,7 miliardi di euro su base annua, che noi vogliamo far diventare 19,7 miliardi di euro green alle stesse categorie, quindi nessuno ci rimette niente. Allora, Ministro, le sue intenzioni, le sue buone intenzioni non le mettiamo in dubbio, poi però quando si va a comporre il bilancio dello Stato e si arriva in fase di manovra, come sa, su questo fronte ci sono delle resistenze notevoli, soprattutto dalle parti spesso del Ministero dell'Economia, nel quale obiezioni che possono essere: vabbè ragazzi, abbiamo bisogno di far cassa in questo momento e quindi intanto riduciamo i sussidi e poi alla compensazione ci penseremo con calma. Teme un rischio di questo, teme qualcosa di questo genere? No, guardi, mi fa piacere che mi fa questa domanda, perché la legge di bilancio attuale, quella approvata per l'anno 2020, prevede che il lavoro che stiamo facendo sia fatto insieme al Ministero dell'Economia e insieme al Ministero anche dei Trasporti e dello Sviluppo Economico, cioè 4 ministeri che concordano sulla linea che le ho dato io, cioè il passaggio dai dannosi ai favorevoli. Per essere che serve per fare cassa, serve invece per aiutare per singola categoria coloro che passano, quindi rimane nella categoria. Le faccio un esempio: noi nelle cosiddette audizioni di cui si è parlato in questi giorni abbiamo sentito tutte le associazioni ambientaliste, come prevede la norma, ma anche l'Unione Petrolifera, per esempio, che le dico anche con grande piacere, non è che ha alzato le barricate, ha detto ci sta bene, vi faccio delle controproposte, su quello stiamo lavorando assieme. Vuol dire che sta passando l'idea che qualcosa bisogna farla. La condizione di ingaggio è non danneggiare nessuno, le categorie nel caso di specie. Come per esempio gli autotrasportatori, Costa? Ma beh, guardi, gli autotrasportatori per esempio in questo momento non sono nell'elenco, quindi non li danneggi, non li favorisci, semplicemente rimangono come così come erano. Il riscaldamento o il gasolio da riscaldamento non è nell'elenco in questo momento. Le faccio un esempio concreto. L'omino che ha una vettura, per esempio, gasolio, in questo momento paga un tot in meno alla pompa per fare gasolio, circa 30 centesimi, poi dipende al litro ovviamente, dipende dalle condizioni dove a quale pompa va a fare rifornimento. Nei prossimi 10 anni si diminuirà di massimo 3 centesimi all'anno. Questo stiamo parlando al litro, per 10 anni, cioè stiamo parlando di questo tipo di sforzo che serve a quel medesimo driver per essere aiutato magari ad acquistare un'auto ibrida o meglio ancora total electric. Vedi come cambia completamente la narrativa? Non so se riesco a spiegarlo in modo chiaro. Sì, sì, mi pare si sia spiegato abbastanza. Io vorrei capire, lei ha parlato del gasolio da riscaldamento. Per quanto riguarda invece metano e GPL, perché anche quelli sono compresi tra i sussidi ambientalmente dannosi, no? L'IVA agevolata su metano e GPL, certo, da riscaldamento. Certo, anche certo. Là volete lasciare le cose intoccate? No, guardi, non è che le lasci intoccate, perché noi 19,8 miliardi li dobbiamo agganciare tutti. Ma si fa pian pianino e concordemente con i stakeholders, ovvero sia i soggetti, i controinteressati. Adesso ne abbiamo 7, alcune cubano veramente, penso che ce n'è una che cuba 190 milioni all'anno, se niente, tra virgolette su 19,8 miliardi, e le altre pian pianino, perché noi abbiamo deciso di non fare tutto in giro, non essere tranchant, ma di farlo anno per anno, con un tempo medio massimo di 10 anni, confrontandosi e definendo insieme agli stakeholder qual è la migliore via per favorirli in modo tale che nessuno ci rimetta niente. Quindi è un percorso magari una virgola più lento, inesorabile, più lento, ma che principalmente ci fa fare la svolta finalmente e che non crea disagio al cittadino, che sia quello che usa il gasolio per riscaldamento, quello che lo usa per la trazione e via via. Tra l'altro con il recovery fund noi abbiamo la possibilità addirittura di favorire talune categorie, cioè di aiutarle in questa cosiddetta svolta green, quindi di andare ben oltre i 19,8 miliardi e quindi di andare a spingerle, a favorirle in una svolta che prima magari non si poteva, non ci stavano le risorse per fare, non è mai per far cassa. Ministro, c'è un altro paio di questioni che vorrei affrontare con lei. La prima è sicuramente quella della tassa sulla plastica. Dopo tante discussioni entra in vigore nel 2021 la nostra, che sono 40 centesimi per ogni chilo di plastica monouso immessa sul mercato. Scatta però, arriverà anche quella europea che è da 80 centesimi al chilo. Dovremo adeguarci? Allora, noi stiamo negoziando proprio con l'Unione Europea, perché qual è l'elemento? È quello lì che se noi parliamo di una plastica che non ha un futuro, tra virgolette, immagini per esempio che noi siamo leader a livello mondiale della filiera delle bioplastiche, cioè quelle plastiche che possono possono andare nel compostaggio e quindi attivare l'economia circolare. Noi abbiamo questa leadership e stiamo negoziando con l'Unione Europea per dire non ci ammazzate la filiera delle bioplastiche, perché è una filiera che ha un futuro a livello addirittura mondiale, non è soltanto una prerogativa italiana di leadership italiana, quindi una difesa quasi ideologica di una linea italiana, ma è principalmente un'occasione per a livello europeo e direi anche oltre. Ecco, su quello noi stiamo negoziando. Se tu vuoi in un certo qual modo favorire il passaggio verso il green, salva la bioplastica. Poi è chiaro anche perché devi intervenire, e questa è la base negoziale. Mi scusi ministro, però se torno a bomba, perché poi il tempo è limitato, prego, prego. Se torno a bomba, dovremo adeguarci alla quota, quegli 80 centesimi al chilo europei, oppure no? Fuori di bioplastica. Ah, fuori di bioplastica, allora va armonizzato indubbiamente poi con la norma italiana, altrimenti c'è il rischio che si sommano tasse su tasse e non avrebbe senso. Ma la cosa importante è anche quell'altra, in parallelo. Sì, però arriveremo agli 80 centesimi al chilo, ministro, quindi è inevitabile, mi sembra di capire. No, che stiamo facendo questo tipo di negoziazione proprio per evitare che noi ci ritroviamo invece in una, diciamo tra virgolette, in ginocchio rispetto ad altri paesi d'Europa. Stiamo dicendo, guardate, così a noi non ci sta per niente bene, dato che l'Italia in Europa non è un paese qualsiasi, pesa molto nelle votazioni, noi pesiamo ben di più di altri paesi più piccini, perché là il sistema delle votazioni funziona per peso specifico delle nazioni, l'Italia è tra le prime tre e noi stiamo facendo pesare anche questo. Tra l'altro su questo stiamo facendo squadra col MES proprio perché siamo d'accordo perfettamente sulla linea, quindi anche col Mise, le dico la verità. Sì. Quindi su questo, poi le dico anche un'altra cosa, sì, che mi piace rammentare. Noi però stiamo provando, la norma l'abbiamo già fatta, il decreto attuativo finalmente è all'ultimo miglio, quello sul credito d'imposta per le aziende che diminuiscono gli imballaggi, cioè io ti favorisco e ti riconosco un quid, un qualcosa economicamente anche significativo nel momento in cui mi diminuisci l'imballaggio. Entra in manovra, ministro? No, già dentro. È nella manovra scorsa, parliamo di decreti attuativi adesso, quindi è già dello Stato. No, ci siamo in autunno. In autunno. Diciamo, perché sai, quello c'è il passaggio al Consiglio di Stato, c'è tutta un'altra fila, una notifica all'Unione Europea, eccetera. Quindi è un po' lento, ma l'abbiamo fatto tutto questo percorso. E le aggiungo altro, favorendo, guarda caso, alle imprese, chiedendo e aiutandoli, quindi economicamente, dicendo, beh, però mi fai bioplastica, e beh, io ti aiuto ancora di più. E guardi che è un vantaggio significativo. Ecco perché la negoziazione ci vede in prima linea con l'Unione Europea. Questa filiera non ce la puoi ammazzare. La ringrazio e grazie al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, tornerò da lei quando avremo un po' più di tempo, perché ci sono molti argomenti e molti hanno a che fare anche con il Recovery Plan, perché il Recovery Plan è attraversato da tutta la tematica green e quindi il ruolo del Ministero sarà centrale sotto questo aspetto. Grazie Ministro, le auguro una buona giornata, salve. Grazie anche a lei, grazie. Abbiamo nell'ambito anche del nostro Radio Day dedicato alla scuola, adesso veniamo proprio a questo, tanto ce ne avete parlato anche nei vostri messaggi, dandoci un po' un'idea di come stanno funzionando le cose, la misurazione della temperatura a casa, le mascherine. Siamo con Patrizio Bianchi, che è un economista industriale, professore della cattedra UNESCO su educazione, crescita e uguaglianza dell'Università di Ferrara, ma soprattutto qua in quanto ex coordinatore della famosa task force del Ministero dell'Istruzione. Professor Bianchi, benvenuto, eccoci. Buongiorno a tutti. Allora, al suono della campanella, eccolo Patrizio Bianchi. Che cosa ci dice, professore? Le indicazioni che avevate dato sono state rispettate? Sì, in gran parte sono state rispettate. Direi che in diversi modi siamo riusciti a arrivare al 14 di settembre. È una giornata importante per tutti e io spero che sia una festa per tutti. Quindi il lavoro della task force è servito alla fine, professore, perché c'è sempre questo dubbio, no? Queste task force, un po' come la task force Colao, arrivano, presentano il loro rapporto e poi il rapporto resta là, dice sì, vabbè, no, prendo una paginetta, se va bene, però poi... No, aspetta, noi abbiamo fatto un lavoro come Colao che è a due stadi, è come un missile. Il primo stadio era arrivare al 14 settembre, poi la seconda parte è cosa succede da adesso in avanti e soprattutto l'idea importante, importantissima, che la scuola è un fatto fondamentale per lo sviluppo economico di tutto il paese. La scuola non riguarda soltanto gli 8 milioni di ragazzi, che pure sono già un esercito, ma riguarda tutti, perché investire in scuola vuol dire investire in sviluppo e per noi vuol dire uscire da quella fase della bassa crescita che ha segnato il paese per 20 anni. Noi ci siamo occupati anche di questo in quel rapporto. Che è la parte sulla quale mettere ancora mano, professor Bianchi, evidentemente. Eh sì, Ma io credo che essere arrivati ad oggi, sperando che tutti colgano il grande sforzo collettivo che il Paese sta facendo, io credo che sia una buona premessa poi per affrontare anche i problemi che ci portavamo dietro da molto prima del Covid. E quindi credo che sia oggi una giornata importante anche per far partire il secondo stadio del missile. Sì, che deve appunto dobbiamo strutturare, cioè dobbiamo far partire, dobbiamo accendere. Senta, professore, tra i tanti problemi aperti c'è un problema storico della scuola italiana, ne abbiamo parlato spesso in questi giorni, che è il sistema di reclutamento dei docenti. Ah, che certo. Già era in crisi prima, i titoli di settembre li ricordiamo tutti, sono sempre su questo, e con il Covid questi problemi si sono acuiti. Sì, si sono acuiti anche perché noi, diciamolo, non abbiamo dato moltissima attenzione in passato a questo problema degli insegnanti, quasi fosse un mestiere residuo, quasi fosse una cosa del poiché non trovo niente da fare vado a insegnare. Invece insegnare è importante ed è importante non soltanto avere, essere formati nella mia materia, io sono un prof di matematica o un prof di italiano, ma essere formati proprio nell'insegnare, perché vede, c'è una cosa fondamentale che dobbiamo capire. Mentre nel secolo scorso, pensa, quando si parla del Novecento si parla già del secolo scorso, le competenze che venivano richieste per lo sviluppo erano competenze molto specifiche, no? Devi sapere tanto di matematica, tanto di scienze, tanto di lingue. Oggi le discipline sono quelle dello stare assieme, quello del fare squadra, quello di riuscire ad affrontare problemi complessi in gruppo. Allora anche agli insegnanti ci vuole più formazione proprio, direi, pedagogica, più sul come si insegna e anche su come si vede lontano. E allora qui anche le università devono mettersi di più, molto di più, ad affrontare questi temi. Anche su questo fronte pensa che ci siano, così come sul tema della riapertura della scuola, pensa che ci siano state e che ci siano delle resistenze sindacali troppo forti, professore? Ma no, guardi, io non credo che sia un problema di resistenze sindacali, credo che sia un bisogno generale quasi di rimuovere quello che è avvenuto. Io ho sentito continuamente la parola torniamo alla normalità, torniamo alla normalità, come se la normalità della nostra scuola di prima andasse tutto bene. No, noi non dobbiamo tornare alla normalità di prima, dobbiamo tornare ad una scuola molto migliore di prima, perché i dati complessivi della nostra scuola ce l'hanno segnalato tutte le istituzioni internazionali, tutte dall'Istat fino all'Invalsi, non andavano proprio bene bene, eh? Noi avevamo tanti ragazzi che non finivano la scuola, avevamo dei risultati che non erano proprio buoni e avevamo soprattutto quell'indice molto brutto di, diciamolo, incompetenza digitale che poi si è visto alla prova dei fatti. Quindi dobbiamo andare molto oltre la normalità. Quindi io credo che sia un problema non di resistenza sindacale, ma di resistenza collettiva. Sì. C'è un'attitudine di tutti noi ad avere difficoltà ad affrontare questi temi. E dico noi adulti, per non dire noi vecchi, soprattutto nel momento in cui c'è stato un salto tecnologico come quello che abbiamo di fronte. Sì. Quindi professore, mi sembra di capire che lei è da una parte piuttosto ottimista, da una parte ha l'impressione che il governo abbia fatto tutto quello che doveva fare, le istituzioni in genere abbiano fatto tutto quello che dovevano fare. Guardi, io ho questa attitudine, io credo che ci sia stato un grande lavoro anche sotterraneo da parte delle scuole, da parte dei docenti, i quali in un primo momento si sono smarriti, ma poi poco alla volta hanno anche recuperato, hanno anche imparato. Io non so se è stato fatto tutto quello che si sarebbe potuto fare. Io credo che sia importante oggi dire si riapre con molte difficoltà, con molte evidenze, e credo che cominci una fase nuova, quella cioè dell'investimento. D'altra parte è il ragionamento che ci domanda l'Europa. L'Europa che cosa ci dice? Non soltanto di riaprire la porta, ma di utilizzare questa riapertura della porta, e quindi credo anche questo spirito generale che si è generato nel Paese a favore della scuola, per fare quegli investimenti che non abbiamo fatto. Perché non dimentichi che dal 2009 sì. al 2012, quando c'era da fare il salto sia tecnologico sia economico, noi abbiamo tagliato. Avevamo l'acqua alla gola, lo capisco, sì. ma abbiamo tagliato. Questo è il momento. di prendere anche le risorse che l'Europa mette a disposizione per far fare alla scuola e al paese là un grande salto. E metterle là. Grazie Patrizio Bianchi per essere stato grazie con noi. Voi. Buona grazie, giornata. Tanti auguri a tutti. In bocca al lupo ai ragazzi, poi continueremo a parlare di scuola tra poco con Alessandro Milan, con Maria Piera Ceci nel consueto appuntamento del lunedì. Grazie a Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, e i nostri autori Margherita Ine e Francesco Ciaraffo. Ci risentiamo domani alle 6.30. Ciao! Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.